Nessuna proposta poteva giungere più tempestiva. Quando le donne furono fuori della stanza, Mr. Tulliver ebbe veramente la sensazione che l'aria fosse stata liberata da mosche importune. Poche cose gli piacevano di più che far quattro chiacchiere con Mr. Dean, il quale, troppo assorbito dagli affari, gli poteva concedere di rado quel godimento. Mr. Dean era, a suo avviso, l'uomo più istruito del suo ambiente. E aveva inoltre una caustica prontezza di parola che sopperiva piacevolmente ad una tendenza analoga di Tulliver, la quale però era rimasta in una fase piuttosto inarticolata. Ed ora che le donne se n'erano andate, si potevano sviluppare i loro discorsi seri senza frivole interruzioni. Potevano scambiare le loro vedute sul duca di Wellington, la cui condotta nella questione cattolica aveva gettato una luce completamente nuova sul suo carattere, e discutere senza riguardi sulla sua tattica alla battaglia di Waterloo, che egli non avrebbe mai vinta se non avesse avuto dietro di sé una grande massa di inglesi, senza dire di Blücher e dei prussiani, i quali, come Mr. Tulliver aveva saputo da persona particolarmente informata sull'argomento, erano arrivati proprio al momento buono, sebbene qui ci fosse una leggera divergenza perché Mr. Dean osservava che non era disposto a dare molto credito ai prussiani. La costruzione delle loro navi, come pure il carattere poco soddisfacente delle transazioni per la birra di Danzica, lo inducevano a formarsi un concetto abbastanza basso dell'attività dei prussiani in generale. Quasi completamente battuto su tale questione, Mr. Tulliver passò ad esprimere i suoi timori che il paese non sarebbe mai tornato nella condizione di prima. Ma Mr. Dean, facendo parte di un'azienda che stava aumentando i suoi utili, aveva naturalmente una più lusinghiera opinione del presente ed era in grado di fornire alcuni particolari sull'importazione, specialmente dei pellami e dello zinco, che calmarono l'immaginazione di Mr. Tulliver, allontanando in un più remoto avvenire il periodo in cui il paese sarebbe caduto completamente in preda di papisti e radicali e non ci sarebbe stato più niente da fare per i galantuomini. Zio Pallet se ne stava seduto ad ascoltare con occhi ammiccanti queste elevate discussioni. Per conto suo, egli non capiva niente di politica e pensava anche che per questo ci volesse un dono naturale, ma da ciò che poté cavarne, quel duca di Wellington non valeva più del naturale. 8. Mr. Tulliver scopre il suo lato debole. Supponi che la sorella Glegg ti chieda indietro i suoi denari. Sarebbe una bella difficoltà per te di riuscire subito a procurarti 500 sterline, disse quella sera Mrs. Tulliver al marito, ricapitolando melanconicamente la giornata. Mrs. Tulliver viveva da 13 anni col marito, ma serbava ancora, con tutta la freschezza dei primi tempi del matrimonio, la facoltà di dire cose che spingevano il marito in direzione opposta a quella da lei desiderata. C'è dei tipi veramente straordinari per conservare la loro improntitudine, nello stesso modo che un pesce dorato d'età patriarcale par che mantenga fino all'ultimo la giovanile illusione di poter nuotare in linea retta oltre le pareti del boccale che lo ricingono. Mrs. Tulliver era un amabile pesce di questa specie e dopo di avere per 13 anni dato del capo contro un ambiente che le resisteva sempre allo stesso modo, andava ancora adesso a picchiarvi con instancabile alacrità. Con quella osservazione ella ottenne subito il risultato di convincere Mr. Tulliver che per lui non sarebbe stato affatto difficile di mettere insieme le 500 sterline e quando Mrs. Tulliver prese ad insistere per sapere come egli avrebbe raccolto la somma senza ipotecare il mulino e la casa, su cui aveva dichiarato che mai avrebbe acceso ipoteche, ora che la gente era così poco disposta ad imprestare denaro senza garanzie. Mr. Tulliver, scaldandosi, dichiarò che Mrs. Glegg poteva fare ciò che le pareva per il suo denaro. Egli l'avrebbe restituito, richiesto o non richiesto. Non voleva certo aver debiti con le sorelle di sua moglie. Quando un uomo si imparenta con una famiglia dove c'è un'intera masnada di donne, deve sopportare un sacco di cose se ha questo gusto, ma Mr. Tulliver non aveva questo gusto. Mrs. Tulliver lasciò gocciare alcune lacrime silenziose mentre si metteva la cuffia da notte, ma poi si sprofondò subito in un confortevole sonno, cullata dal pensiero che avrebbe potuto parlare chiaramente di ogni cosa con la sorella Pallet all'indomani, dato che doveva condurre i bambini ai pini di Garum per il tè. Non già che prevedesse alcun preciso risultato da quella conversazione, ma le pareva impossibile che i passati avvenimenti fossero così ostinati da rimanere immutabili, anche quando fossero state fatte le debite lagnanze al riguardo. Il marito rimase desto più a lungo, perché stava pensando egli pure ad una visita che avrebbe fatto all'indomani, e le sue idee in proposito non erano di un genere così vago e consolante come quelle della sua amabile metà. Sotto l'influenza di un forte sentimento, Mr. Tulliver trovava una prontezza d'agire che poteva parere incompatibile con quel doloroso senso della complicata ed imbarazzante natura delle cose umane da cui erano signoreggiate le sue decisioni più spassionate, ma può darsi che in realtà ci fosse invece un rapporto diretto tra questi fenomeni, in apparenza contraddittori. È invero osservato che per avere la netta impressione che una matassa è imbrogliata non c'è che mettersi a tirarne con violenza uno dei fili. Fu appunto per questa improntitudine che il giorno seguente Mr. Tulliver balzò a cavallo subito dopo colazione. Non era un dispettico, diretto a Bassett per far visita alla sorella Moss e a suo marito. Avendo infatti irrevocabilmente deciso di restituire a Mrs. Glegg il suo prestito di 500 sterline, gli venne in mente, come era naturale, che aveva un'obbligazione del cognato Moss per 300 sterline imprestategli e che se il detto cognato poteva regolarsi in modo da pagargli la somma ad una epoca determinata, questo avrebbe diminuito di molto la falsa aria di bravata che la focosa decisione di Mr. Tulliver poteva assumere agli occhi della gente timida, che vuol sapere con esattezza come una cosa sarà fatta prima di avere piena fiducia che essa sia facilmente fattibile. Effettivamente, la posizione di Mr. Tulliver non era nuova per lui, né impressionante, ma come tutte le cose quotidiane non poteva mancare di essere gravida di conseguenze accumulate che, col tempo, si sarebbero fatte sentire. Egli era ritenuto persona molto più facoltosa di quanto fosse in realtà, e siccome noi siamo sempre proclivi a credere ciò che il mondo crede di noi, così egli aveva l'abitudine di pensare al fallimento e alla rovina con quella specie di remota pietà con cui un uomo magro e dal collo lungo apprende che il suo pletorico vicino dal collo tozzo ha avuto un colpo apoplettico. Era stato sempre avvezzo a sentirsi ripetere dei piacevoli scherzi sui privilegi di un uomo che esercisce il proprio mulino e possiede un bel pezzo di terra, e questi scherzi mantenevano naturalmente in lui la sensazione d'essere una persona di notevoli ricchezze e si davano un gradevole aroma al suo bicchier di vino nei giorni di mercato, e non ci fossero state le scadenze trimestrali, Mr. Tulliver avrebbe certamente dimenticato che sulla sua libera proprietà, così invidiata, gravava un'ipoteca di 2000 sterline. La colpa, d'altronde, non era tutta sua, perché 1000 di quelle 2000 sterline rappresentavano la parte di sua sorella, che egli aveva dovuto versarle all'atto del matrimonio, e un uomo che ha dei vicini che gli fanno delle cause non è certo in grado di pagare delle ipoteche, tanto più se gode la fiducia dei conoscenti, disposti ad imprestargli un centinaio di sterline in tutta sicurezza senza esigerne ricevuta con bollo. Il nostro amico Tulliver aveva un animo ben nato e non sarebbe mai stato tipo da opporre uno sgarbato rifiuto ad una sorella che non soltanto era venuta al mondo in quella superflua maniera che è caratteristica delle sorelle, rendendo necessarie quelle ipoteche, ma si era sprecata con quel suo matrimonio e aveva coronato i propri sbagli col mettere al mondo un ottavo figlio. A questo riguardo Mr. Tulliver capiva benissimo d'essere un po' debole, ma se ne scusava dicendo che la povera Gritty, prima di sposare Moss, era stata una ragazza carina, qualche volta anzi lo diceva con un piccolo tremito nella voce. Ma quel mattino egli si sentiva veramente l'animo dell'uomo d'affari, e durante la sua cavalcata lungo i sentieri di Bassett, tutti sconvolti da profonde carreggiate e così distanti da ogni centro di mercato che il trasporto del prodotto e del concime era tale da portarsi via la miglior parte del profitto su cui una povera parrocchia come quella potesse contare, Egli si mise in uno stato di congrua irritazione contro Moss, uomo senza capitale, che, se anche l'epizoozia e le malattie delle piante fossero infierite in un altro paese, di sicuro ne avrebbe ugualmente avuto la sua parte, e che quanto più si cercava di aiutarlo ad uscire dal pantano, tanto più ci si infognava. Sarebbe stato più un bene che un male per lui d'essere costretto a procurarsi ora quelle 300 sterline. Questo l'avrebbe obbligato a badare un po' meglio ai casi suoi e a non buttar via la sua lana da minchione come l'aveva fatto l'anno prima. Effettivamente, Mr. Tulliver era stato troppo corrente col cognato. E siccome per 2 anni aveva lasciato andare gli interessi, Moss era capace di credere che non si sarebbe mai stato molestato con quel capitale. Ma Mr. Tulliver era deciso a non incoraggiare quest'individuo che gli sgusciava così di mano, e una cavalcata per i sentieri di Bassett non era davvero adatta a mitigare le risoluzioni di un uomo che voleva indietro il suo denaro addolcendogli l'animo. Le profonde peste dei cavalli impresse nelle fangose giornate d'inverno gli davano di tanto in tanto un sobbalzo che gli suggeriva una rude ma eccitante bestemmia contro il padre degli avvocati, il quale, per via del suo piede forcuto o per qualche altro motivo, aveva senza dubbio qualche rapporto con la condizione delle strade. E l'abbondanza di terre incolte e di siepi trascurate che gli venivano sott'occhio, quantunque non facessero parte della fattoria del cognato Moss, accresceva forte il suo malcontento contro quel disgraziato agricoltore. Se quel terreno incolto non era di Moss, poteva però esserlo. Bassett era tutto uguale, una parrocchia di mendicanti, a giudizio di Mr. Tulliver, e questo giudizio non era certo senza motivo. Bassett aveva un suolo povero, delle povere strade, un povero signore non residente, un vicario povero non residente, e meno che mezzo curato, povero anche quello. Se, forte della convinzione che lo spirito umano ha il potere di trionfare sulle circostanze, qualcuno volesse sostenere che i parrocchiani di Bassett potevano, malgrado tutto, essere una classe di gente superiore, io non ho nulla da eccepire contro questa proposizione astratta. So soltanto, come dato di fatto, che lo spirito di Bassett era in stretto accordo con le condizioni esteriori. I macciosi sentieri, verdi od ocracei, che ad una persona malpratica pareva non dovessero condurre se non dall'uno all'altro, finivano invece a sfociare con pazienza in un lontano stradone. Ma c'erano a Bassett molti piedi che più sovente conducevano ad un centro di dissipazione nominato ufficialmente Marquis of Granby, e tra gli intimi il Dickinson. Un grande stanzone basso, con un pavimento cosparso di sabbia, un freddo puzzo di tabacco misto con quello soffocato della feccia di birra. Mr. Dickinson, appoggiato contro lo stipite della porta, con una malinconica faccia pustolosa, di un aspetto alla luce del giorno incongruo come quello della candela consumata nella notte precedente. Tutto questo non sembrava una tentazione molto seducente. Eppure, la maggior parte degli uomini di Bassett vi trovava un fascino fatale quando capitavano a passarvi davanti verso le 4 di un pomeriggio invernale, e se una donna di Bassett voleva significare che suo marito non era un uomo di piaceri, difficilmente poteva trovare una forma più eloquente che quella di dire che da una Pentecoste all'altra egli non lasciava uno scellino da Dickinson. Mrs. Moss l'aveva detto di suo marito più di una volta, quando il fratello era in umore di biasimarlo, come era certamente quel giorno. E per accrescere il malumore di Mr. Tulliver non mancava che il pessimo stato del cancello della fattoria, che non appena tentò di aprirlo col frustino, subito fece ciò che fanno le porte sprovviste dei cardini superiori, con gran pericoli degli stinchi, sia equini che umani. Era sul punto di smontare e di condurre per mano il cavallo attraverso il sudicio fango dell'aia infossata, sulla quale si stendeva l'ombra del grande rustico costruito in legname fino a mezza altezza, e raggiungere così l'abitazione padronale che sorgeva parecchio deteriorata su un alto selciato. Ma il tempestivo apparire di un bifolco gli permise di seguire il piano che si era prefisso, vale a dire di non smontare da cavallo durante tutta la visita. Quando un uomo ha intenzione di mostrarsi duro, bisogna che rimanga in sella e parli da quell'altezza, sopra il livello degli occhi imploranti, a dominio di un lontano orizzonte. Mrs. Moss, la sorella, udì lo scalpitio del cavallo e aggiungere del fratello era già fuori della porta della cucina, con un mezzo sorriso sul volto e un bimbo dagli occhi neri tra le braccia. Il viso di Mrs. Moss aveva una vaga somiglianza con quello del fratello, le manine graziose del bimbo, stringendole le guance, parevano farne maggiormente rilevare l'impressionante magrezza. Sono contenta di vederti, fratello, disse in tono affettuoso. Non ti aspettavo quest'oggi. Come stai? Oh, molto bene, Mrs. Moss, molto bene, le rispose il fratello con calcolata freddezza, come se rivolgendogli quella domanda si fosse spinta un po' troppo oltre. Ella capì subito che il fratello non era di buon umore. Non la chiamava mai Mrs. Moss se non quando era in collera o quando si trovavano in compagnia. Ma pensò che era nell'ordine naturale delle cose che chi si trova in disagio venga maltrattato. Mrs. Moss non traeva alcun vantaggio dall'uguaglianza della razza umana. Era donna paziente, prolifica e dal cuore affettuoso. Tuo marito non è in casa, a quanto pare, soggiunse Mr. Tulliver dopo un grave silenzio, durante il quale quattro bambini si erano precipitati fuori come pulcini di cui la madre si sia d'improvviso eclissata dietro il pollaio. No, disse Mrs. Moss, è soltanto laggiù nel campo delle patate. Giorgio, corri subito alle chiuse lontane e di' al babbo che è arrivato tuo zio. Vuoi smontare, fratello? Vuoi prendere qualche cosa? No, no, non posso. Devo tornare subito a casa, disse Mr. Tulliver guardando distante. E come stanno, Mrs. Tulliver, e i bambini? Domandò Mrs. Moss umilmente, non osando di ripetere l'invito. Oh, molto bene. Alla mezz'estate Tom entrerà in una nuova scuola, un sacco di spese. Gran brutto affare per me d'aver dato via il mio denaro. Spero che sarai così buono da permettere ai bimbi di venire a far visita ai loro cugini uno di questi giorni. I miei piccoli hanno tanto desiderio di vedere la loro cugina Maggie. E io, che sono la sua madrina e le voglio così bene, non c'è nessuno che l'apprezzi di più, per quanto dicano o facciano. E so che a lei piace di venire qui perché è una bambina affettuosa e poi tanto viva e intelligente, oh, tanto, tanto. Se Mrs. Moss fosse stata una delle più intelligenti donne del mondo, anziché una delle più semplici, non avrebbe potuto escogitare nulla di più abile che questo panegirico di Maggie per propiziarsi il fratello. Raramente gli trovava qualcuno che avesse voglia di far l'elogio della piccola. Di solito non c'era che lui ad insistere sui suoi meriti, ma Maggie appariva sempre nella luce più favorevole agli occhi della zia Moss. Era questo il suo asilo, fuori dalla giurisdizione delle leggi. Se rovesciava qualche cosa, se si sporcava le scarpe o si strappava le vesti, tutte queste erano cose naturali per la zia Moss. Contro ogni suo disegno, gli occhi di Mr. Tulliver si fecero più mansueti, né poté più parlare torcendo lo sguardo dalla sorella. Credo che voglia più bene a te che a tutte le altre zie. Tiene tutta dalla nostra famiglia, di quella di sua madre non ha nemmeno un'unghia. Moss dice che è proprio come ero io, disse Mrs. Moss, tranne che io ero meno intelligente e meno appassionata dei libri, ma credo che la mia Lizzie sia come lei. È sveglia quella lì. Vieni qui, Lizzie, cara, e fatti vedere dallo zio. Cresci così in fretta che ti conosci appena. Lizzie, una bimbetta sui 7 anni dagli occhi neri, pareva molto intimidita quando sua madre la spinse avanti perché i piccoli Moss avevano un grande rispetto per lo zio del mulino di Dorlcote. Era troppo inferiore a Maggie nel fuoco e nell'energia dell'espressione per rendere quella somiglianza pienamente lusinghiera all'amore paterno di Mr. Tulliver. Qualche cosa c'è, disse, guardando con benevolenza quella figurina dal grembiule sudicio. Tengono tutte e due da nostra madre. Non ne hai scarsità tu di bambini, Gritty? Soggiunse in tono metà di compassione e metà di rimprovero. Quattro. Che Dio li benedica, disse Mrs. Moss con un sospiro, lisciando i capelli di Lisi da una parte e dall'altra della fronte. Tante quanti i maschietti, hanno un fratello per ciascuna. Bisognerà che si diano d'attorno per bastare a se stesse, disse Mr. Tulliver, accorgendosi che la sua severità stava cedendo e cercando di ribadirla con l'emettere un avviso salutare. Non bisogna che siano di peso ai fratelli. No, ma io spero che i fratelli vorranno bene a queste povere creature e si ricorderanno che vengono dallo stesso padre e dalla stessa madre. I ragazzi non diventeranno certo più poveri per questo, disse Mrs. Moss, accendendosi di un timido guizzo come un fuoco semispento. Mr. Tulliver dette un piccolo colpo sul fianco del cavallo, poi lo trattenne e disse irritato: «Ma sta fermo tu!» col più grande stupore del mite animale. «Quanto più sono numerosi, tanto più debbono volersi bene tra di loro», continuò Mrs. Moss guardando i figli con intenzione educativa. Ma poi si volse di nuovo al fratello per dirgli: «Non giacchi o non speri che tuo figlio sarà sempre buono con la sorella, anche se sono in due soli come tu ed io, fratello». Questa freccia andò diritta al cuore di Mr. Tulliver. Non aveva un'immaginazione molto pronta, ma il pensiero di Maggie gli era presente sempre e non gli ci volle molto per vedere il parallelismo tra i suoi rapporti con la sorella e quelli di Tom con Maggie. E se la piccola si fosse trovata in una posizione difficile e Tom l'avesse trattata con durezza? «Ehi, ehi, Gritty», disse il mugnaio con una nuova dolcezza nella voce, «ma io ho sempre fatto quel che potevo per te», soggiunse come per sottrarsi a un rimprovero. «Oh, non lo nego, fratello, e io non sono certo un'ingrata», disse la povera Mrs. Moss, troppo logorata dalla fatica e dai figli perché le rimanesse la forza di essere orgogliosa. «Ma ecco il babbo. Quanto tempo ti ci è voluto, Moss?» «Tanto, ti pare?» disse Mr. Moss, sentendosi senza fiato e accusato per giunta. «Ho fatto tutta la strada di corsa. Non volete scendere, Mr. Tulliver?» «Ben, smonterò giusto per fare due chiacchiere con voi nel giardino», disse Mr. Tulliver, sentendo che avrebbe più facilmente potuto dimostrare la necessaria fermezza se la sorella non era presente. Smontò e si avviò in giardino con Moss, dirigendosi verso un boschetto di vecchi tassi, mentre la sorella rimase lì, battendo leggermente sul dorso del suo piccolo e seguendoli attentamente con lo sguardo. La loro entrata nel boschetto dei tassi sorprese parecchi polli che stavano divertendosi a grattare delle buche nella terra secca e che subito presero la fuga con un grande starnazzare e scoccodare. Mr. Tulliver si sedette sulla panca e, picchiando il terreno qua e là col suo frustino, curiosamente, come se vi sospettasse una qualche cavità, intavolò la conversazione, osservando con un tono che aveva qualcosa di ringhioso: «Già, vedo che avete di nuovo seminato frumento nella chiusa d'angolo, e mai un'oncia di concime, non caverete niente di buono quest'anno». Mr. Moss, che quando aveva sposato Mrs. Tulliver passava per il galletto di Bassett, ora aveva una barba di quasi una settimana e l'aria depressa e stroncata di un cavallo da macina. Rispose in tono paziente e lamentoso: «Sapete, un povero agricoltore come me deve fare quel che può. Il gusto di mettere nella terra più della metà di quel che si conta a ricavare bisogna lasciarlo a quelli che hanno denari da buttar via. Gente che abbia denari da buttar via io non ne conosco, se non quella che può farsene imprestare senza pagare gli interessi», disse Mr. Tulliver, il quale aveva intenzione di far nascere un piccolo litigio, che era la maniera più naturale e semplice di arrivare a chiedere la restituzione del proprio denaro. «Lo so che sono indietro con gli interessi», disse Mr. Moss, «ma l'anno scorso sono stato così sfortunato con la lana. E poi, con la storia che mia moglie ha partorito, le cose sono andate anche più di traverso del solito». «Ehi», brontolò Mr. Tulliver, «c'è della gente a cui le cose andranno sempre di traverso. Sacco vuoto non si reggerà mai in piedi». «Beh, io non so che razza di torti mi vogliate rinfacciare, Mr. Tulliver», disse Mr. Moss supplichevole. «So soltanto che nessun bracciante a giornata sgobba più di me». «E a che serve? disse Mr. Tulliver aspro. Quando un uomo si sposa senza aver altro capitale per mandare avanti la fattoria che quel po' di fortuna di sua moglie. Fin dal principio io sono stato contrario al vostro matrimonio, ma né l'una né l'altro di voi mi ha voluto dar retta. E io non posso tener più oltre il mio denaro fuori di casa perché ho da pagare 500 sterline a Mrs. Glegg. E poi c'è Tom che mi costerà parecchio, sicché mi troverò a corto anche se riesco a rientrare nel mio. Bisogna che voi vi muoviate e troviate il modo di restituirmi quelle 300 sterline. Ebbene, se è questo che volete, disse Mr. Moss guardando smarrito davanti a sé, è meglio che ci facciano il pignoramento e così sarà finita una buona volta. Bisogna che io mi disfaccia di tutti i capi di bestiame per pagare voi ed il proprietario. I parenti poveri sono innegabilmente irritanti. La loro esistenza è così totalmente contraria a tutti i nostri desideri che essi ci appaiono quasi sempre carichi di torti. Mr. Tulliver era riuscito a mettersi contro Mr. Moss in quello stato di irritazione che aveva desiderato, sicché alzandosi trovò il tono collerico. Bene, dovete rimediare come potete. Io non posso trovare denaro per gli altri, se non ne trovo nemmeno per me. Devo pensare ai miei affari, alla mia famiglia. Non posso più fare a meno del mio denaro. Dovrete trovarmelo al più presto. Pronunziando queste ultime parole, Mr. Tulliver uscì bruscamente dal boschetto. E senza più voltarsi verso la sorella, andò alla porta della cucina dove il maggiore dei ragazzi gli teneva il cavallo mentre sua sorella lo attendeva in uno stato di stupore allarmato, che non era però senza qualche sollievo perché il piccolo stava mettendo delle piacevoli vocette gorgoglianti ed esercitava un po' i suoi ditini sullo stanco volto materno. Mrs. Moss aveva 8 figli. Ma non si era mai potuto consolare dei gemelli che non le erano venuti. Mr. Moss pensava che la loro dipartita non era esente da qualche consolazione. Non vuoi entrare, fratello? Ella disse, guardando ansiosa verso il marito, che stava giungendo a passi lenti mentre già Mr. Tulliver teneva un piede sulla staffa. No, no, addio, egli rispose voltando il cavallo e spronando via. Nessun uomo si sarebbe potuto sentire più risoluto di lui. Finché fu uscito dal cancello del cortile ed ebbe fatto qualche passo per il sentiero dalle profonde carreggiate. Ma, avanti di giungere alla prima svolta, oltre la quale avrebbe perduto di vista i cadenti edifici della fattoria, apparve colpito da qualche improvviso pensiero. Arrestò il cavallo e lo tenne fermo nello stesso punto per 2 o 3 minuti, durante i quali volse il capo a destra e a sinistra, con aria malinconica, come considerasse da parecchi lati uno spettacolo penoso. Evidentemente, dopo quel suo accesso di improntitudine, Mr. Tulliver stava ricadendo in preda alla sensazione che questo mondo è una cosa imbarazzante. Voltò il cavallo e tornò indietro lentamente, abbandonandosi all'incalzare del sentimento che aveva determinato la sua nuova decisione, e dicendo ad alta voce, mentre frustava il cavallo: Povera piccola, forse non le rimarrà che Tom quando io me ne sarò andato. Il ritorno di Mr. Tulliver nel cortile fu scorto da parecchi piccoli Moss che immediatamente si precipitarono dalla mamma a recarle l'interessante notizia, talché Mrs. Moss si trovava già di nuovo sulla soglia dell'uscio allorché giunse il fratello. Aveva pianto, ma ora stava cullando tra le braccia il piccino per addormentarlo e non diede alcun segno di visibile tristezza quando il fratello la guardò, ma gli disse soltanto: Papà è tornato nel campo se cerchi di lui, fratello. No, Gritti, no, disse Mr. Tulliver con voce affabile. Non ti crucciare, ecco tutto. Troverò qualche piccolo espediente per fare a meno di quel denaro, ma voi dovete ingegnarvi a lavorare più che potete. Questa inattesa bontà, le lacrime di Mrs. Moss tornarono a sgorgare ed ella non poté rispondere nulla. Su, su, la piccola verrà a farti visita, te la porterò qui con Tom qualche giorno prima che gli vada a scuola. Non devi crucciarti, sarò sempre un buon fratello per te. Ti ringrazio di questa parola, fratello, disse Mrs. Moss asciugandosi le lacrime. Poi, volgendosi a Lizzie, su, presto, va a prendere l'uovo colorato per la cugina Maggie. Lizzie corse via e subito dopo tornò con un piccolo involto. L'abbiamo fatto cuocere sodo, fratello, e poi tinto con la cimasa di una pezza di lana. È riuscito bene. È stato preparato appositamente per Maggie. Vuoi metterlo in tasca e portarglielo? Disse Mr. Tulliver riponendoselo con cura nella tasca laterale. Addio. E così il degno mugnaio se ne tornò lungo i sentieri di Bassett, molto più imbarazzato di prima circa i mezzi che avrebbe adottati, ma col senso di essere scampato ad un pericolo. D'improvviso era stato sorpreso dall'idea che se egli si mostrava duro con la sorella, questo avrebbe potuto far sì che Tom lo fosse poi verso Maggie, in un giorno lontano, quando suo babbo non sarebbe più stato lì a prendere le sue parti. Perché le persone semplici, come il nostro amico Tulliver, hanno una speciale attitudine a vestire di idee sbagliate i sentimenti più giusti. E quella era appunto una confusa maniera di spiegare a se stesso come mai la propria tenerezza e sollecitudine per la piccola avevano fatto nascere in lui una nuova sensibilità verso la sorella. 9. Ai pini di Garum. Mentre i crucci che l'avvenire poteva riservare a Maggie occupavano lo spirito del babbo, ella stava invece assaporando l'amarezza del presente. L'infanzia non ha presentimenti, ma in compenso non è consolata dalla memoria delle pene superate. Fatto sta che la giornata era cominciata male per Maggie. La gioia di potersi occupare di Lucy e la prospettiva di una visita pomeridiana ai pini di Garum, dove avrebbe sentito suonare la tabacchiera musicale di zio Pallet, erano state, fin dalle 11 del mattino, sciupate dall'arrivo del parrucchiere di St. Oaks, che si era pronunciato nei termini più severi sulle condizioni in cui aveva trovato i suoi capelli, alzando l'una dopo l'altra le ciocche tagliuzzate ed esclamando «Guarda un po', to, to!» in un tono misto di disgusto e di pietà che per l'immaginazione di Maggie equivaleva all'espressione più risoluta della pubblica opinione. Mr. Rapid, il parrucchiere, con i suoi ricci bene impomatati sulla fronte, che si innalzavano ondeggiando come una finta piramide di fiamme su di un'urna monumentale, le parve in quel momento il più temibile dei suoi contemporanei. E certamente ella si sarebbe ben guardata dall'entrare per tutto il resto della propria vita nella strada di St. Oaks, dove egli teneva bottega. Inoltre, siccome i preparativi per una visita erano sempre un affare di Stato nella famiglia Dodson, Martha aveva avuto l'ordine di rifare la camera di Mrs. Tulliver un'ora prima del consueto, in modo che non si dovesse aspettare l'ultimo momento per mettere fuori le vesti belle, come succede talvolta nelle famiglie di men rigorosi principi, dove i nastri non vengono mai ripiegati, dove ben poche cose o nessuna vengono riposte nei loro pacchi di carta d'argento, e dove l'idea che gli abiti della domenica si possano indossare con la massima facilità non scandalizza nessuno. Già fin da mezzogiorno Mrs. Tulliver aveva indosso la sua veste da visita con un apparato protettivo di grossa tela bruna, come se fosse stata un mobile ricoperto di seta da proteggersi contro le mosche. Maggie faceva le smorfie e si stringeva nelle spalle per liberarsi il più possibile delle moleste punte del colletto, mentre la madre la rimproverava: «Finiscila, Maggie, mia cara, non fare quella faccia così brutta!» Le guance di Tom erano particolarmente brillanti, quasi a mettere in maggior valore il bell'abito turchino che egli portava con calma decorosa. Essendo riuscito, dopo qualche discussione, ad effettuare la sola cosa per lui importante della toeletta, cioè a trasferire tutto il contenuto delle sue tasche quotidiane in quelle attualmente di servizio. Lucy, per parte sua, era carina ed elegante quanto il giorno prima. Alle sue vesti non toccava mai nessun incidente, né mai ella le portava con disagio, sicché guardava con stupita pietà le smorfie e i contorcimenti di Maggie, molestata da quel colletto esasperante. Maggie se lo sarebbe certamente strappato via se non l'avesse trattenuta il ricordo dell'umiliazione toccatale di recente per la storia dei capelli. In mancanza di meglio, si limitava a stizzirsi e dimenarsi, intrattenendosi tutta immusonita con le carte che erano state loro concesse per costruire le casette fino all'ora di colazione, unico gioco conveniente per ragazzi e bambine che indossino gli abiti belli. Tom costruiva delle perfette piramidi, mentre quelle di Maggie non riuscivano mai a reggere alla posa del tetto. Succedeva sempre così, per tutte le cose che Maggie si metteva a fare. E Tom ne aveva dedotta la conclusione che le ragazze non sono buone a nulla. Ma ecco che Lucy si mostrò straordinariamente abile nelle costruzioni. Maneggiava le carte con tale leggerezza e aveva dei movimenti così garbati che Tom ebbe la condiscendenza di ammirare le case di lei come le proprie, tanto più volentieri in quanto ella lo aveva pregato di insegnarle. Anche Maggie avrebbe ammirato le case di Lucy e buttato all'aria le proprie disgraziate costruzioni per contemplare quelle senza alcun malanimo se non ci fosse stato quel colletto a renderla stizzosa e se Tom non avesse sconsigliatamente riso quando le sue case crollavano dicendole che era una stupida. «Non ridere di me, Tom!» gridò irritata. «Sono tutt'altro che una stupida e so tantissime cose che tu non sai!» «Oh! Lo credo bene, Miss Acciarino, non vorrei mai essere un impiastro come te, né fare delle simili smorfie. Lucy non è così, e Lucy mi piace più di te, vorrei Lucy io per sorella.» «Ebbene, sei molto cattivo e crudele a parlare così», disse Maggie, alzandosi con violenza dal pavimento e rovesciando la meravigliosa pagoda di Tom. Veramente non aveva avuto intenzione di farlo, ma tutte le apparenze erano contro di lei. Tom si fece pallido d'ira, ma non disse nulla. L'avrebbe picchiata se non avesse saputo che era vile picchiare una bambina, e Tom Tulliver era ben deciso a non commettere mai nessuna viltà. Maggie rimase lì, costernata e atterrita, mentre Tom si alzò dal pavimento e si allontanò, pallido, dalle rovine della sua pagoda, e lui si guardava muta come una gattina che smetta di lambire il suo latte. «Oh, Tom!» disse finalmente Maggie avanzandosi un poco verso di lui. «Non ho voluto buttartela giù, ti assicuro che non ho voluto.» Tom non le diede retta, e invece si cavò di tasca due o tre piselli secchi e con l'unghia del pollice li lanciò contro la finestra. A caso dapprima, ma poi con la precisa mira di colpire un decrepito moscone che stava esponendo i suoi acciacchi al sole di primavera, evidentemente contro i voleri della natura, la quale aveva designato Tom e i piselli ad una pronta distruzione di quella vacillante esistenza. Così la mattina era divenuta penosa per Maggie, e la persistente freddezza di Tom verso di lei, durante tutta la passeggiata, le sciupò l'aria fresca e la luce del sole. Egli chiamò Lucy per farle vedere un nido di uccelli, mezzo costrutto, senza curarsi di mostrarlo a Maggie, e scortecciò un bastoncino di salice per sé e uno per Lucy, senza offrirne uno anche a Maggie. Lucy aveva detto: «Maggie, non ti piacerebbe di averne uno?» Ma Tom fece il sordo. Tuttavia, la vista di un pavone che sul muro di cinta opportunamente spiegò la sua coda proprio nel momento in cui essi giungevano ai pini di Garum, bastò a distogliere per un momento gli spiriti dai personali rancori, e questo non era che il principio delle belle cose che avrebbero vedute ai pini di Garum. Lì tutta la vita della fattoria era meravigliosa: galline di Giava variegate col ciuffo, galline di Frisia con le penne tutte girate sottosopra, galline di Guinea che volavano e schiamazzavano e perdevano le loro belle penne picchiettate, piccioni cavalieri ed una gazza addomesticata, ancor più una capra e uno stupendo cane maculato, mezzo mastino e mezzo bulldog, grande come un leone. E poi c'erano tutto intorno degli steccati bianchi con le porte bianche e delle lucenti ventarole di varie forme, e nel giardino dei viali sparsi di ghiaia in bei disegni. Nulla c'era ai pini di Garum che non avesse qualcosa di straordinario. E Tom pensava che anche la strana grossezza dei rospi fosse dovuta alla generale stranezza che caratterizzava tutto ciò che zio Pallet possedeva nella sua qualità di proprietario. I rospi che pagano affitto sono naturalmente più magri. Quanto alla casa, non era meno notevole. Aveva una rientranza al centro e due ali con torrette merlate ed era intonacata di un lucido stucco bianco. Lo zio Pallet aveva scorto dalla finestra l'arrivo dell'attesa compagnia e si era precipitato a togliere sbarre e catene alla porta di entrata, tenuta sempre così fortificata per timore dei vagabondi, i quali potevano benissimo essere a conoscenza della vetrina con gli uccelli impagliati del vestibolo e meditare di introdursi per portarla via. Anche zia Pallet apparve sulla porta e non appena la sorella fu abbastanza vicina per udirla, gridò: «Ferma i ragazzi, Bessie, per amor di Dio, non lasciarli salire sui gradini! Sally sta portando la vecchia stuoia e lo scopino per pulir loro le scarpe!» Gli stuoini alla porta di Mrs. Pallet non dovevano affatto servire a strofinarvici le scarpe. Persino il raschiatoio aveva un surrogato per compiere la sua sudicia funzione. Tom provava una particolare ribellione contro quello strofinamento delle scarpe, che gli aveva sempre considerato qualcosa di indegno del proprio sesso. Vi sentiva come il principio degli sgradevoli incidenti di una visita in casa di zia Pallet, dove una volta era stato costretto a starsene seduto con degli asciugamani avvolti intorno alle scarpe. Fatto che può servire a rettificare la troppo precipitosa conclusione che una visita ai pini di Garum dovesse essere un piacere straordinario per un giovane signore innamorato degli animali, innamorato, per dir la verità, di prenderli a sassate. L'altro fastidio era tutto riservato alle compagne di sesso femminile e consisteva nel dover salire per le scale di quercia lucida, che avevano sì dei bei tappeti, ma arrotolati e riposti in una camera da letto di riserva, sicché l'ascesa di quegli scalini sdrucciolevoli sarebbe potuta servire in tempi lontani come un giudizio di Dio, da cui solo un'immacolata virtù poteva uscire con gli arti tutti interi. Il debole di Sophie per quelle scale così lustre era sempre oggetto delle più amare rimostranze di Mrs. Clegg, ma Mrs. Tulliver non arrischiava commenti, solo pensando tra sé che sarebbe stata grazia se lei e le bambine potevano arrivare salve all'approdo. «Mrs. Gray mi ha mandato a casa il cappello nuovo», disse Mrs. Pallet in tono patetico, mentre Mrs. Tulliver ricomponeva la propria cuffia. «Ah, sì, sorella?» disse Mrs. Tulliver con un'aria di grande interesse. «E come ti piace?» «È facile gualcirle queste cose, a prenderle e a riporle tante volte», disse Mrs. Pallet, estraendo di tasca un mazzo di chiavi e guardandole con attenzione. «Ma sarebbe peccato che tu te ne andassi via senza averlo veduto, non si sa mai quel che può succedere». Mrs. Pallet scosse il capo lentamente a quest'ultima grave considerazione, che la decise a scegliere una speciale chiave tra le molte. «Ho paura che sia un disturbo per te di metterlo fuori, sorella», disse Mrs. Tulliver, «ma mi piacerebbe vedere che specie di corona ti ha fatto». Mrs. Pallet si alzò con aria melanconica e aperse uno dei corpi di una guardaroba molto lucida, nella quale voi potreste avventatamente supporre che ella avrebbe trovato il suo cappello nuovo. «Niente affatto. Simile supposizione potrebbe soltanto essere suggerita da una troppo superficiale conoscenza delle abitudini della famiglia Dodson. In quella guardaroba Mrs. Pallet stava cercando qualche cosa di abbastanza minuto per poter essere nascosto tra le pile della biancheria, ed era la chiave di una porta. «Devi venire con me nella camera bella», disse Mrs. Pallet. «E le bambine vengono anche loro, sorella?» domandò Mrs. Tulliver, avendo visto che Maggie e Lucy dimostravano una curiosità piuttosto ardente. «Beh», disse zia Pallet, riflettendo, «è forse più prudente che vengano. Toccherebbero qualche cosa se le lasciamo qua». E così si avviarono in processione lungo il corridoio lucido e sdruccioloso, scialbamente illuminato dalla parte più alta della finestra che si apriva a mezzaluna al di sopra delle imposte chiuse. C'era davvero qualcosa di altamente solenne. Zia Pallet si fermò e aprì una porta che dava su qualche cosa di ancora più solenne che il corridoio, una stanza buia nella quale la luce dell'esterno, penetrando debolmente, mostrava un che di simile a dei cadaveri di mobili in bianchi sudari. E tutti quelli che non erano avvolti se ne stavano con le gambe per aria. Lucy si teneva attaccata alla sottana di Maggie e il cuore di Maggie batteva forte. Zia Pallet schiuse un po' le persiane e poi aprì la guardaroba con una melanconica ponderazione che era perfettamente in carattere con la funerea solennità della scena. La deliziosa fragranza di foglie di rosa che emanava dalla guardaroba rese piacevole anche la procedura di quei fogli di carta d'argento tolti ad uno, quantunque poi la vista del cappello finisse col deludere Maggie, che avrebbe preferito alcunché di più impressionante e sovrannaturale. Poche cose, invece, avrebbero potuto fare maggiore impressione su Mrs. Stalliver. In silenzio lo guardò giro giro per qualche minuto e poi disse con energia: «Bene, sorella, non criticherò mai più le corone complete». Era una grande concessione e Mrs. Pallet lo sentì. Sentì pure che in qualche modo bisognava ricambiarla. «Ti piacerebbe di vedermelo in capo, sorella?» disse languidamente. «Aprirò un tantino di più la persiana». «Sì, se non ti disturba di toglierti la cuffia, sorella», disse Mrs. Tulliver. Mrs. Pallet si tolse la cuffia, scoprendo la calotta di seta bruna donde sporgeva un ciuffetto di riccioli, come era di moda a quel tempo tra le signore più mature e giudiziose, e poi, mettendosi il cappello, si girò lentamente, come un manichino da negozio di stoffe, in modo che Mrs. Tulliver non perdesse nessun punto di vista. «A volte mi è venuto il pensiero che possa esserci una gala di troppo qui a sinistra, sorella. Che te ne pare?» disse Mrs. Pallet. Mrs. Tulliver guardò attentamente il punto indicato, piegando il capo da una parte. «Bene, io credo che stia meglio com'è, e se lo tocchi, sorella, potresti poi pentirtene». «Questo è vero», disse zia Pallet, togliendosi il cappello e considerandolo pensosamente. «Quanto te lo potrà far pagare un cappello così, sorella?» disse Mrs. Tulliver, che stava alacremente rimuginando la possibilità di procurarsi un'umile imitazione di quel capolavoro mediante uno scampolo di seta che aveva in casa. Mrs. Pallet strinse le labbra e scosse il capo, e poi finalmente mormorò: «È Pallet che paga. Ha detto che io dovevo avere il più bel cappello della chiesa di Garum. Sia di chi vuole quello che gli viene secondo». E cominciò ad aggiustarsene piano piano le guarnizioni, preparandosi a rimetterlo al suo posto nella guardaroba. E i suoi pensieri parevano aver preso una piega malinconica, perché scuoteva il capo. «Ah!» disse finalmente. «Forse non arriverò a portarlo due volte, sorella. Chissà mai». «Oh, non dir così, sorella», rispose Mrs. Tulliver. «Spero che sarai in ottima salute quest'estate». «Ah, ma può capitare qualche morte in famiglia, come è successo dopo che ho avuto il cappello di raso verde. Il cugino Abbott può andarsene e per lui non possiamo far conto di portare il crespo meno di 6 mesi». «Sarebbe una disdetta», disse Mrs. Tulliver, immedesimandosi a fondo della possibilità di un decesso intempestivo. «Portare un cappello il secondo anno non è mai lo stesso piacere. Tanto più che le corone fanno talmente presto a cambiare di moda. Mai le stesse per 2 anni di seguito». «Ah, così van le cose di questo mondo», disse Mrs. Pallet, rimettendo il cappello nella guardaroba e richiudendola. E mantenne un silenzio commentato da un tentennare del capo, finché tutti furono usciti da quella camera solenne e tornati nella sua stanza. Allora, cominciando a piangere, disse: «Sorella, se tu non dovessi mai più rivedere questo cappello, finché io sia morta e sepolta, ti ricorderai che io quest'oggi te l'ho mostrato». Mrs. Tulliver sentì che doveva mostrarsi intenerita, ma era donna di poche lacrime, forte e sana, non le riusciva di piangere quanto la sorella Pallet, e spesse volte ai funerali aveva sentito questa sua inferiorità. Il suo sforzo di farsi venire le lacrime agli occhi ebbe come risultato una bizzarra contrazione del viso. Maggie, che stava guardando attentamente, si accorse che sul cappello della zia gravava qualche doloroso mistero e che ella era considerata troppo giovane per poterlo capire, e si sdegnò al tempo stesso perché era consapevole di poter comprendere quella, come del resto qualunque altra cosa, se ne fosse stata messa a parte.